Giovedì 13 settembre del 2012, sono le 14 in punto e questa è Radio Onda Rossa. Dal 1977, senza padroni, senza pubblicità. E questa è Visionari, ogni giovedì dalle 14 alle 15 per parlare di cinema. Tutte le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito della radio www.ondarossa.info. Alla voce trasmissioni Visionari troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di domani venerdì 14 settembre, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la programmazione sul piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia e poi il link per riascoltare la puntata precedente e tutte quelle del 2012. Per comunicare con noi, infine, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per inviarci sms in diretta 342-357-4357. Allora, dovremmo essere in collegamento con Ivano De Matteo. Ci sei, Ivano? Sì, a voglia. Ciao, ciao Pedro. Allora, ben ritrovato su queste frequenze. Come stai? Bene, emozionato, bene. Molto bene, molto bene. Allora, ti dico subito una cosa. L'altro giorno stavo risistemando a casa e lo sai che mi è recapitato in mano un vecchio mio film? Il testo di Uomini e Vasi. Oddio! Era datato 1996 200. E tu eri uno dei due attori protagonisti, insomma. Ci conoscevamo già da qualche anno, quindi figurati il tempo. Mi hai ricordato uno spettacolo a cui tenevo tantissimo. Sì, anche a me era piaciuto tanto. Allora, oggi sarai il primo in trasmissione, il tuo film esce domani in sala, tra l'altro domani a Fandango Incontro alle 18 ci sarai tu insieme a Valerio Mastandrea a presentarlo, se non sbaglio. Sì, faremo sì, un dibattito libero col pubblico e poi dopo ci sarà la prima alle 8:30, cioè così, quindi sarà bello, emozionante anche quello, scambiare le opinioni col pubblico, chi l'avrà visto, chi l'ha già visto a Venezia o chi l'ha visto a Venezia a Roma, l'anticipazione di 2 giorni fa. Allora, io intanto ti anticipo che l'ho visto l'altro giorno quando ci siamo incontrati all'anteprima stampa, ti faccio i miei complimenti, dei tuoi 3 film li ho visti tutti, questo mi sembra veramente il migliore, come l'interpretazione di Valerio mi sembra tra le sue cose migliori. Beh, io sono d'accordo con te, sono d'accordo con te anche perché per quanto mi riguarda chiaramente c'è una matura sia come persona, come uomo, e maturi come regista, quindi insomma sto facendo questo percorso ormai lungo, quindi per il mio terzo film sono contentissimo. Per quanto riguarda Valerio, io ho detto, non so se mi posso permettere di parlare degli altri film, ma in questo io l'ho trovato veramente stupendo. Sì. Senti Ivano, allora, ma per questo ha vinto anche il premio. È certo. Allora, intanto mi piace anche la tua tenacia, perché ricordiamo che il tuo secondo film, per noie burocratiche diciamo, non ha raggiunto la sala, tu non ti sei perso d'animo, hai realizzato anche il terzo film. Sì, oltretutto il film non è uscito in Italia, è uscito in Francia, è andato benissimo. Io poi per un atto di disobbedienza l'ho voluto proiettare a Valle e sono stato denunciato penalmente per aver mostrato il mio lavoro, questo è un po' anche un altro paradosso italiano. Sì. Senti, per chi non conosce la storia del film, lo puoi raccontare per sommi capi? Gli equilibristi è un film su l'equilibrismo economico, sull'equilibrismo del portafoglio, è un affresco della problematica del ceto medio, della crisi economica che colpisce appunto il famoso ceto medio, coloro che prendono i 1200 euro al mese. Poi con l'uso, come miccia, uso la separazione delle due persone, quindi degli uomini separati, quindi tratto anche quella problematica. Ma è un film sull'economia, un problema, è un film su quello che ci hanno fatto credere fino adesso, che stavamo tutti bene, in realtà nell'ultimo ventennio ci hanno fatto credere questo benessere fittizio, no? Questo ologramma di benessere, e adesso sta arrivando il conto, e chi lo paga adesso? Certo. Senti, poi chiaramente. Uno degli aspetti che mi ha colpito della tua rappresentazione, intanto della città, è che Roma è una realtà multietnica, ma ancora con forti radici popolari. È una Roma chiaramente, come hai visto, è una Roma non da cartolina, quindi fatta eccezione per un attimo San Giovanni, che non riconosce una Roma. Una Roma praticamente quella che vivono, chi vive a Roma, i romani intendo, i romani e tutti quelli che vivono a Roma. Ci sono lo jugoslavo, il cinese, tutti, quindi è una metropoli, è un film che è girato qua, ma potrebbe essere girato anche in un'altra città del nord Europa o sud Europa, dipende dai punti di vista. Volevo raccontare una Roma chiaramente anche dei romani, e quindi parecchi dei personaggi sono Roma caratterizzati dai romani. Posso citare Francesca Antonelli, che è un'attrice bravissima, che fa un piccolo ruolo, e Valerio che si muove come un fantasma in questa Roma che a volte noi ce la ricordiamo soltanto appunto come la famosa Roma da cartolina della Roma borghese, la Roma bella, e qui c'è una Roma nascosta, buia, dove vive la vita, vivono davvero le persone. Senti, il progetto com'è nato, Ivano? Il progetto nasce molto tempo, cioè nel senso nel 2007 insieme alla mia compagna, con la quale poi ho firmato la sceneggiatura, avevamo letto l'articolo sull'Espresso, e quindi di questa problematica dei nuovi poveri, no? Gli equilibristi appunto, li chiamano gli assistenti sociali, queste persone che a un certo punto, non perdendo il lavoro, ma anche nella separazione o per qualsiasi problema, vanno a vivere in macchina, comunque vanno un po' alla deriva sociale. Quindi ho voluto cominciare a, mi sono, come dire, documentato, ho fatto prima La bella gente, ho fatto un altro film e poi ho detto volevo fare questo qua. E quindi ho cominciato a conoscere un mondo nuovo, veramente un mondo nuovo, dove non è soltanto a livello economico il problema, è che quando c'è poi quello economico c'è poi questo scollamento con la società, questo distaccamento con gli affetti familiari, quindi c'è un effetto domino che si ripercuote su tutto. E non sono una, due, tre, quattro, cinque, sono 200 persone che infatti tu mostri per esempio la mensa dei poveri, uno immagina che ci siano solo i barboni, in realtà ci sono anche impiegati, lui è un impiegato comunale che non ce la fa, ha il lavoro, non ha perso il lavoro, ha due figli e continua ad avere il lavoro, deve inventarsi un doppio lavoro, ma comunque non ce la fa. Non ce la fa, infatti c'è una battuta, dice ci vorrebbe il terzo, il quarto, dice purtroppo la sera ancora dormo, che stronzo, perché non so, io quando sono andato alla mensa, alla comunità di Sant'Egido, che sono stato 4-5 volte per documentarmi, non è che c'è il barbone classico, c'è il cliché del clochard con la barba o l'extracomunale che non c'hanno lì, no, lì c'è stava la signora con la nipotina, c'era l'uomo che lavora, ho incontrato tante persone che conosco, ho incontrato amiche di mia madre, ho incontrato amici che con la testa bassa che si vergognavano, abbiamo parlato, siamo un po' tutti in equilibrio, Senti Ivano, una delle strutture con cui viene a contatto Valerio è quella degli uomini separati. Ecco, una cosa che mi incuriosiva, ad esempio, nelle separazioni, i figli, in base a quale criterio vengono affidati? Ma guarda, è spesso, ma quasi sempre, giustamente vengono affidati, insomma, la mamma che rimane poi nella casa, a meno che non ci sono dei casi estremi, quindi possono essere violenze da parte della mamma nei rispetto dei confronti dei figli, o storie di torsione, o storie di emarginazione, insomma, alla fine poi quello dipende dal giudice, però insomma nella maggior parte dei casi rimangono giustamente con la mamma, nella casa. Credo che sia questa la motivazione, con quelli che ho parlato è quello, sì. Poi è chiaro, sono dei casi, altri casi per cui rimangono col papà, ma per altri motivi, insomma. Poi è il giudice che poi a volte se ne sono un po', a volte forse con leggerezza, danno degli affidamenti a volte anche sbagliati, sia nel sia che col padre sia che con la madre. È molto delicata la cosa, molto delicata. Poi a volte ci sono, come dire, delle incomprensioni, la mamma che mette contro il papà, che mette contro i figli, contro la madre o al contrario. Nel mio caso io non ho toccato questo tema, perché è una separazione consensuale, i figli li può vedere, dà i suoi soldi di mantenimento alla famiglia e il momento che deve pagare la sua casa per vivere, per fare la sua nuova vita, la sua nuova famiglia, ecco che quei 5 o 600 euro quando trova questa casa non ce la fa più. Ecco là che si blocca il meccanismo, un meccanismo di porcellana, quando c'è un piccolo, il primo piccolo intoppo, anche un granello di sabbia spacca tutto. Oh Ivano, nonostante il tema sia drammatico, riesci a mantenere quell'ironia disincantata che fa parte proprio della cultura popolare romana. Guarda, io la prima mezz'ora seguo sempre il film, ogni volta che lo proviamo c'è queste risate, senti che sotto c'è qualcosa, ma quella sì è un po' anche l'ironia, come dici tu, romana del sud dell'Italia, insomma, è scanzonata, però sotto poi cominci a sentire. È una commedia drammaticamente amara, dove per la prima mezz'ora si sorride anche, sono 4-5 momenti dove ridi proprio, però sì. Senti che sotto c'è qualcosa che comunque sta in qualche modo cambiando, e poi infatti c'è proprio l'altra faccia, no? Sì. La piega diversa che prende il film. È una commedia drammaticamente amara, questo è il mio termine, insomma. Definire anche un dramedy, perché è un nuovo termine che usano qui, il commedia e drama. Sì, dramedy. Sì, per sì. Me è una commedia all'italiana drammaticamente amara. Sì, sì. Allora Ivano, da domani nelle sale in quante copie? Siamo a Roma, circa 80 copie, a Roma siamo in 10 sale. Belle cifre, belle cifre. Eh sì, perché io credo che per un po' tutti, cioè lì siamo 50 copie, ma prima dell'uscita piano piano sono salite, siamo arrivati quasi a 80, quindi da 50 siamo arrivati quasi a 80. A Roma saremo al Greenwich, all'Eden, al Minion, e poi c'è al Maestoso, al King, all'Andromeda, anche gli Warner, sono i 3 multisale, a Ostia, a Fiumicino, insomma... Speriamo insomma che il cinema risponda anche al pubblico. Ha contribuito anche il fatto che comunque alle proiezioni il film è piaciuto. A Venezia è andato benissimo, alle proiezioni stampa è andato bene, all'anteprima Roma-Venezia-Roma ha fatto il pieno, la stampa, cioè ho avuto la soddisfazione anche di avere un'ottima critica, una pagina di Variety che per me insomma mi ha fatto molto piacere. Cioè, sono stato molto contento delle critiche, oggi è uscito un altro pezzo sul Fatto Quotidiano, il Manifesto ne ha parlato bene, cioè tutti i giorni, cioè, sono stato contento. Cioè. Bene. Diciamo che a questo punto pubblico e critica ci stanno un po' tutti. Vediamo allora da domani la risposta del pubblico. Ivano, io ti abbraccio, a risentirci presto. Un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori della Onda Rossa. Ciao Ivano, ciao. Ivano De Matteo, regista del film Gli Equilibristi, in sala da domani, 14 settembre. E sul nostro cammino ritroviamo Salvatore Mereu, ci sei? Buongiorno. Ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa, caro. Grazie. Allora, parliamo con te del lavoro che hai portato a Venezia. Stiamo facendo un nuovo speciale di Venezia, la terza puntata che dedichiamo, insomma, a lavori portati lì. Bellas Mariposas. Allora, di cosa si tratta, Salvatore? Ma Bellas Mariposas è la riduzione di un racconto di Sergio Azzeni, che appunto ha lo stesso titolo. Un racconto molto noto in Sardegna, anche se poi ha un editore nazionale, che è Sellerio, ed è la storia di due ragazzini, è un racconto di formazione, colte nell'arco di una loro giornata, una giornata particolare, il 3 di agosto di qualche anno fa, anche se poi noi abbiamo portato l'ambientazione ai giorni nostri. Due ragazzini che vivono alla periferia di Cagliari, una delle quali sogna di fare la cantante, due ragazzine che poi a fine giornata scoprono anche di essere sorelle, sono care amiche, però poi per una piccola rivelazione del film, che c'è nel film, scoprono anche di essere sorelle. Senti, la suggestione di portare al cinema il libro viene proprio dalla lettura, ti viene proprio dalla lettura del testo? Sì, devo dire che quando ho letto il testo sono rimasto soggiogato proprio dalla bellezza, dalla qualità letteraria del testo, che è ai confini con un testo proprio di tipo sperimentale, un libro che non ha neanche la punteggiatura, si presenta al lettore come un lunghissimo, ininterrotto discorso in prima persona della protagonista che ci racconta la sua giornata e la sua vita. Mm-hmm. Per parecchio tempo ho avuto la preoccupazione che potesse appartenere soltanto alla letteratura e quindi mi sono guardato bene all'inizio dalla abbracciarlo e farne un film. Poi a una successiva lettura ho capito che in realtà poteva essere anche portato sullo schermo e ho cominciato così questa avventura, insomma, cercando poi di rispettarne anche l'impianto narrativo. Mm-hmm. Parlavi di un'opera di sperimentazione senza punteggiatura, ecco, quali sono gli elementi che ti hanno convinto, che hai trovato più convincenti? Allora, intanto la grande qualità del testo sta nel fatto che si parla di cose terribili riuscendo a trattarle con grande leggerezza, con grande sorriso. Credo che se Calvino fosse vivo, di quel libro direbbe che probabilmente che è una delle migliori realizzazioni di quella idea di leggerezza che lui consegnava ai posteri quando ha fatto le 5 lezioni americane, no? Sì. Ed è questo che è davvero conquista di questo libro, no? Siamo alla periferia di Cagliari, in una situazione anche piuttosto degradata, però si riesce a passare e ad attraversare queste situazioni in punta di piedi con la leggerezza proprio delle farfalle. Letteralmente, infatti, bella smariposa significa appunto belle farfalle. E ho cercato ovviamente di riuscire a riportare questa gentilezza di tocco che c'ha Azzeni anche sullo schermo. Non so se ci sono riuscito, però se c'era uno degli elementi che più mi ha spinto a partire in questa avventura è stato questo. E poi anche l'idea per la prima volta di provare a raccontare anche la parte urbana della Sardegna, sulla quale io, ad esempio, che vengo dall'interno, non mi ero mai misurato. Ecco, proprio a questo proposito, c'è un titolo in lingua, c'è un'ambientazione cagliaritana, ecco, c'è una specificità sarda nel libro? Ma guarda, io credo che se Azzeni radica ovviamente il racconto in un contesto ben preciso, che è quello del quartiere di San Michele, un quartiere popolare dove lui è cresciuto, noi abbiamo portato la vicenda a Sant'Elia, che è il nuovo quartiere popolare di Cagliari, quello che per certi versi assomiglia anche architettonicamente, visto che siete a Roma, a un quartiere come Torbella Monaca. Poi alla fine in realtà si scopre che poi anche nel racconto un po' tutte le periferie e i protagonisti che le abitano si assomigliano, per cui sarebbe davvero riduttivo pensare di confinare il racconto e il film che poi ne è seguito a un fatto esclusivamente sardo. Si finirebbe far torto ad entrambi, sicuramente al libro, insomma, perché le due ragazzine di cui parla Azzeni potrebbero vivere tranquillamente in qualsiasi periferia del mondo, insomma. Salvatore, che percorso avrà adesso Bellas Mariposas? Bella domanda. Allora, guarda, io vengo da una mattinata frenetica di contatto con degli esercenti, perché ovviamente qui, ad esempio, il film è molto atteso, diciamo che il passaggio veneziano è sicuramente stato propizio, ma non tanto da riuscire a sdoganarlo e a garantire una distribuzione nazionale, perché su quello ancora fatichiamo. Ho dei contatti con un paio di società, ma ancora non esiste un contratto, non esiste una data d'uscita. E questo ovviamente qualche preoccupazione la porta, perché ovviamente i film poi sono fatti per le sale, per gli spettatori che vivono solo ai festival. Mi pare davvero, per quanto poi possono avere un passaggio se vuoi soddisfacente per chi li ha prodotti, però poi devono arrivare a un pubblico che non può essere solo quello motivato che si trova in un festival, insomma. Sì. E nel frattempo, per chi volesse avere maggiori informazioni, c'è un sito internet dedicato a questo lavoro? No, i miei collaboratori, molto gentilmente, visto che io non ho molta dimestichezza con i social network, hanno aperto una pagina, credo su Facebook, sulla quale mi dicono c'è un grande dibattito tra quelli che hanno avuto per adesso la fortuna di vederlo, perché il film Oltre a Venezia è passato nella rassegna romana e presto quella milanese dei film del festival. Si è potuto vedere in streaming in un'iniziativa che quest'anno per la prima volta la mostra ha adottato, credo con successo, perché so che poi in due giorni i biglietti erano andati via, quindi qualcuno l'ha già potuto vedere. Certo, la speranza è che poi appunto possa arrivare al pubblico vero, che è quello con cui poi davvero bisogna misurarsi, insomma. Facciamo allora che ci diamo appuntamento per l'uscita in sala. Speriamo, io accolgo il vostro invito e speriamo che sia di buon auspicio. Bene, Salvatore, t'abbraccio e speriamo a presto. Grazie a voi, grazie della chiacchierata e dello spazio. Grazie, è sempre un piacere. A presto. Ciao Salvatore. Ciao. Salvatore Mereu, regista di Bellas Mariposas. Allora, mentre vi ricomunico i nostri mezzi per appunto comunicare con noi, l'indirizzo di posta elettronica che è visionari@ondarossa.info, il numero per inviarci sms in diretta è 342 3574 357, e su un messaggio che ho appena letto, che fa riferimento chiaramente agli equilibristi, leggo: gli impiegati che vanno a mangiare alla Caritas sono degli scrocconi, non arrivano a fine mese perché spendono troppo. Questo è il tenore di questo messaggio arrivato. Comunque, siamo in collegamento con Giorgio Gosetti per continuare a parlare di questo speciale, terzo speciale di Venezia, questa volta post. Con te, per intanto, benvenuto, ben ritrovato Giorgio. Grazie. Io faccio parte volentieri del club sostenitore degli equilibristi. Bene, bene. Io l'ho trovato il miglior film di Ivano e anche, secondo me, di Valerio Mastandrea. Sicuramente il miglior film è il più caldo e il più umano per tutti e due. Sì. Voi direte: perché non stava alle giornate degli autori? Intanto sono contento perché stava a Orizzonti. E poi perché penso che fosse il posto giusto per lui. Sì. Allora, con te per parlare dei, sono un po' curioso dei risultati del convegno Il Cinema degli Anni Zero, che si è svolto il 5 e il 6 settembre, ma poi ho visto che tu hai partecipato anche a un altro incontro, se non sbaglio, organizzato da Cinema Avvenire sulle opere prime. Sì, la cosa sulle opere prime l'abbiamo fatta un po' insieme con Cinema Avvenire, in realtà per festeggiare questi sei giovani debuttanti che sono studenti della Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e che erano stati incoraggiati da un premio promosso dalla SIAE a realizzare il loro primo lungo a molte mani, nel senso che erano sei autori, sei sull'autobus per l'appunto, per una serie di storie pensate un po' cucite insieme dal laboratorio di sceneggiatura di Rubini e Chiti. E poi il Cinema degli Anni Zero è stato, come si dice nel calcio, il kick-off, cioè il punto di partenza, io credo, di un lavoro e di un pensiero che mi auguro molto che le giornate incoraggino e cerchino di sviluppare nel corso di tutto l'anno. Perché... anche perché sono stati diversi gli autori presenti. Sì, noi ci siamo sforzati di dare molto la parola agli autori e non soltanto ai teorizzatori, sì, diciamo. Sì. Anzi, i teorizzatori migliori che abbiamo preso li abbiamo presi da discipline un po' parallele. Pensando che gente come Andrea Cortellessa, come Pedullà, come lo stesso Gianni Canova hanno una visione della critica un po' più ampia, della critica cinematografica o letteraria specificamente, e ci potessero quindi aiutare, come per esempio ha fatto Monreale, a ragionare su che cosa vuol dire oggi mettersi in campo facendo gli autori. E quindi poi dall'altra parte Alice Rohrwacher, Francesco Bruni, Andrea Segre, Costanza Quatriglio, generazioni diverse anche, Giacomo Durzi, Emilio Greco con cui abbiamo progettato proprio questo incontro, Stefano Rulli che ha provato a tirarne un po' le conclusioni, insomma abbiamo provato a mettere insieme famiglie diverse di questo cinema italiano che troppo poco si parla e probabilmente è ora che cominci a ragionare su che cosa sta facendo. Sì, sì. Sono emersi dei focus specifici sul lavoro cinematografico? Direi che sono emerse due cose. Una che è un po' svegliare l'acqua calda, ma insomma diciamola, e cioè che la migliore capacità di presa sulla realtà, non come fotografia della realtà, ma interpretazione della realtà, viene oggi dai cineasti che si formano alla scuola del documentario del cinema della realtà. Questo è un dato oggettivo, basta guardare Di Costanzo, l'autore dell'Intervallo, basta vedere quanti degli autori, Daniele Vicari, appena possono si rivolgono al documentario o da lì vengono, per capire che in questo senso c'è un'eccellenza assoluta di, chiamiamola così, una scuola italiana, una scuola che non ha manifesti ancora, che non ha una sola radice, si lavora in tutta Italia con una straordinaria sintonia in questo senso, e che però è, come direbbe Gianni Canova, la riprova del fatto che il cinema italiano attuale non è il più bello del mondo, ma forse è il più interessante del mondo occidentale. è quello in cui stanno succedendo più cose. Sì, sicuramente c'è molto fermento. Senti, uno degli scogli con cui ci troviamo a confrontarci spesso, quasi sempre, con questa trasmissione che ha come interlocutori soprattutto gli autori e le autrici, è quello della distribuzione. Sì. È vero, è un grande scoglio, però secondo me noi stiamo facendo un ragionamento che mi piacerebbe non definire vecchio, ma lo è nei fatti, cioè ormai siamo alle prese con un mondo della produzione cinematografica che è inesorabilmente diverso da quello che c'era fino a ieri, proprio fino a ieri mattina. Sì, sì, sì, sì. Per cui misurare il successo, la visibilità, la capacità di circolazione del cinema attraverso unicamente i risultati della sala e le inevitabili quindi strettoie di un mercato perfino troppo vecchio e perfino troppo sclerotizzato come quello della distribuzione dell'esercizio tradizionale, è comprensibile, è ancora il metro della capacità di trovare le risorse per fare i film e poi per farle degli altri dopo, ma non si adatta più al pubblico che abbiamo di fronte. Il pubblico che abbiamo di fronte scarica, si aggrega in maniere diverse, cerca strade anche comuni per vedere il cinema e per vedere lo spettacolo del cinema in altri modi, e bisogna un po' attrezzarsi. È di oggi la notizia che chiude il dipartimento pellicola della Fuji, per esempio. In Italia la Technicolor sta riconvertendo, e non solo in Italia, praticamente tutta la sua linea produttiva. I lavoratori di Cinecittà, buona parte di loro sono in mobilitazione perché il dipartimento sviluppo e stampa di Cinecittà sta praticamente per chiudere in senso tradizionale, e la Eastman Color, che ha il mercato mondiale, ha avuto una contrazione del 70% lo scorso anno. Allora misurarsi rispetto al cinema pellicola e quindi al cinema sala con le pizze che circolano e che hanno delle cadenze inesorabili, quando ormai tutte le sale sono obbligate entro il 2013 a riconvertirsi al digitale, e digitale vuol dire poter avere una programmazione molto più flessibile, molto diversificata, gestita dal satellite, gestita dall'hardware, con lo scarico delle pellicole sui server. Beh, sta cambiando proprio il mondo e noi non possiamo non accettare questo tipo di sfida, e questo vuol dire anche fare i film in funzione di questi nuovi modi di fruizione. Sì, sì. Giorgio, che percorso... L'ho fatta serissima, io addirittura non me ne accorgevo, poi sono andato a sbatterci il naso, i nostri film di quest'anno, salvo uno, erano tutti in cosiddetto DCP, cioè in formato digitale, con dei problemi di democrazia o strettoie della distribuzione anche in questo senso, ma di tipo molto diverso da quelli che abbiamo affrontato prima. Eh sì, anche perché sulla rete molti autori stanno inventando proprio delle formule per appunto per avere una visibilità internettiana. Certo. Senti Giorgio, che percorso seguirà questo convegno, se ci saranno prossime tappe? Non le abbiamo ancora stabilite, poi è nato appunto dal pensiero di Giacomo Durzi e Emilio Greco, io mi sono solo associato. Abbiamo tutti e tre la sensazione che appunto è necessario usare la tribuna di Venezia per far sentire la voce e la capacità di riflessione su queste cose. Dopodiché è necessario fare un lavoro forse un po' più sotterraneo, ma che ci porti a fissare qualche cosa. Insomma, se sto cinema italiano e il cinema in realtà degli anni zero passa dallo zero negativo allo zero positivo, ci passa perché prende coscienza di sé. Sì. Probabilmente non è più tempo di manifesti, ma, e qui la dico personale, altri miei colleghi non si riconoscono tanto in questo, una linea di tendenza, un progetto editoriale per il cinema, almeno per il cinema italiano, che guarda la realtà in un modo nuovo, adeguato agli anni 2000, va scritto, va pensato e forse va verificato proprio fra un anno a Venezia. Un'altra cosa che, e su questa finiamo, un elemento importante che mi sembra non tutti colgano è che gli autori sta nell'unione, nel lavorare insieme, spesso una soluzione alle difficoltà. gli autori cinematografici sono artisti e artigiani, sì. E allora è vero che è bello lavorare in bottega, ma poi c'è sempre inesorabilmente la personalità dell'artista che dice il capo bottega sono io. Non è facilissimo. Lo so. La cosa bella che abbiamo visto quest'anno è che intanto le associazioni degli autori, cioè sia l'ANAC che i centri autori, hanno voluto e saputo lavorare insieme, sì. E su tanti territori, da quelli più teorici come appunto il cinema degli anni zero alla pratica delle giornate degli autori, fino al confronto su Cinecittà, che è stata un'iniziativa delle due associazioni e forse fra le cose più concretamente riuscite della nostra presenza veneziana. Mm-hmm. Mi sembra importante che si giochi a tutto campo e che si usi anche un festival per dire ogni tanto si può pure pensare, non c'è bisogno solo di vedere. Certo. Giorgio, allora a risentirci presto, un abbraccio. Un abbraccio a voi e grazie infinite. A presto. Speriamo, ciao. Che le giornate siano presenti spesso ai visionari. Eh sì, eh sì. Ciao. Di nuovo, ciao. Ciao. Allora, Giorgio Cosetti, presidente dell'AFIC, sui risultati del convegno Il Cinema degli Anni Zero, che si è svolta al Lido di Venezia il 5 e il 6 settembre scorsi. Continuiamo sempre con lo speciale veneziano. Benvenuto a Carlo Sironi, che a Venezia ha portato il suo cortometraggio Cargo. Ci sei? Ci sono, eccoci qua. Allora, benvenuto. Carlo, mi interessava questo lavoro, quindi ho preso contatti con te, non ho avuto modo di vederlo, però raccontaci un po' per sommi capi che tipo di lavoro è. Ma il mio lavoro Cargo appunto è nato, diciamo, da una documentazione che io ho fatto insieme a una cooperativa sociale che si chiama Bifree, una cooperativa romana che si occupa in generale della tratta della prostituzione o comunque di problemi legati alla donna, e diciamo loro fanno un lavoro molto, molto forte sul campo, e quindi ho letto questi documenti che loro hanno pubblicato in generale sullo sfruttamento delle donne e particolarmente delle documentazioni dirette di ragazze che sono uscite dalla prostituzione o ne sono rientrate. Senti, leggendo queste testimonianze mi sono detto che forse per me era impossibile, diciamo, raccontare il mondo della prostituzione com'era, un mondo così crudo, così duro, e quindi ho cercato di lavorare su un paradosso, di raccontarlo in un modo completamente diverso, ma con uno stile appunto crudo e da fatto di cronaca. E quindi sono partito appunto da questo paradosso, che è quello che un ragazzo che dovrebbe controllare le prostitute, che dovrebbe essere il loro carnefice, in qualche maniera vede nella propria vittima, in questa ragazza ucraina, vede uno spiraglio di salvezza e si convince che il figlio che lei aspetta sia suo, nonostante chiaramente non ne ha nessuna certezza. E da questa idea folle che lui si mette in testa incomincia a fare un viaggio, un percorso di allontanamento, e diciamo spezza le catene con la gabbia che chiude tutte e due e cerca una fuga che è probabilmente impossibile, insomma, insieme. Senti, dicevi di un'associazione, ma anche della tua ricerca riguarda lo specifico romano? Sì, diciamo che l'associazione mi ha fatto leggere delle cose proprio sullo specifico romano, e chiaramente io poi sono andato a controllare, diciamo, sul terreno e cercare di avvicinare delle ragazze, alcune ci sono riuscito, altre no. Mm-hmm. In generale comunque il lavoro che fanno loro è a livello nazionale ed è molto interessante proprio, cioè, vedere i flussi migratori transnazionali e di come è proprio differente, come in maniera differente vengono trattate ragazze che provengono da paesi UE, cioè paesi dell'Unione Europea o paesi fuori dall'Unione Europea, proprio metodi di ingresso diversi, metodi di sfruttamento diversi. Infatti ho lavorato proprio direttamente su una ragazza arrivata dall'Ucraina, che vengono trattate in maniera differente, anche in maniera, diciamo, meno massiva, col fatto che vengono controllate di più. Mm-hmm. Quindi sì, c'è stato un'informazione da questo punto di vista, anche sia dal punto di vista nazionale, cioè romano, che nazionale. Ecco, oltre a questa questione degli ingressi, quali sono le altre scoperte che hai fatto lavorando sul tema? Beh, la scoperta appunto principale, che è quella che poi mi ha portato a creare il protagonista del corto, che è un ragazzino rumeno che si chiama Iani, e l'attore che lo interpreta è un attore non professionista rumeno, cresciuto in Italia da quando ha 11 anni, si chiama Flavius Gordea, è questo, che, diciamo, la figura a cui tutti siamo abituati del del protettore o del pappone, come si vuole chiamare, è obsoleta, nel senso che un grandissimo numero di ragazze vengono controllate da una, vengono possedute da una sola persona e vengono però controllate sempre da diciamo quella che viene definita la manovalanza, che loro chiamano il pesce, perché è un, cioè dietro ogni prostituta che noi vediamo sulle strade di Roma, dietro ogni gruppetto di 2-3 prostitute c'è un ragazzo che noi non vediamo, che vede le ragazze e le controlla costantemente, con cui lui non parla, semplicemente le controlla, appunto rimane muto come un pesce. Partendo da questa, diciamo, piccola scoperta, che è una scoperta fino a un certo punto di vista, ho lavorato su questa cosa, ho detto: e se questa persona che deve stare là, fermo, in silenzio, è cresciuto in questo mondo, come se fosse stata la sua educazione sentimentale, in qualche maniera si sentisse anche lui in gabbia, quindi questo, su questo paradosso ho cercato di lavorare, cioè sul fatto di dire una cosa che poi in realtà raramente è realistica e raramente succede, appunto in qualche maniera chi è il carnefice di queste ragazze può sentirsi anche lui in gabbia, e da là chiaramente ho cercato di ribaltare un po' il punto di vista sul rapporto vittima e carnefice. Senti Carlo, due cose. La prima, di che numeri stiamo parlando? Quante donne sono vittime di questo mercato? E poi cosa c'è dietro? Non ne ho idea, nel senso di numeri, sono numeri talmente grandi, talmente cioè non si possono censire, col fatto che comunque un'altra delle cose che appunto molto interessante dal punto di vista proprio attuale su come è cambiato il mercato, diciamo che da quando la Romania, che è ora per i paesi diciamo industrializzati dell'Occidente, dell'Europa, il bacino d'utenza maggiore a livello di numeri, è stato chiaramente l'ingresso insomma nell'Unione Europea e quindi l'abbattimento di Schengen, l'abbattimento di tutto, da questo momento diciamo è nata una forma di prostituzione molto forte volontaria, nel senso che molte ragazze di paesi poveri sanno già cosa vengono a fare e addirittura si spostano in come dei tour organizzati, cioè un anno in Italia, un anno in Francia, un anno in Spagna e poi si ritorna in Romania. Questo è diciamo un'altra delle cose che mi ha stupito, ma poi chiaramente il mio lavoro è voluto, cioè vuole, io ho cercato di immergermi in questo mondo che è chiaramente un mondo a me in parte sconosciuto e che ho, con cui ho voluto entrare dentro, ma mantenere appunto la mia visione in qualche maniera, quindi poi non è un film indicativo diciamo di un fenomeno sociale in maniera precisa, certo. Ma cerca di raccontare questi due personaggi, fondamentalmente queste due persone che cioè, sono divise entrambi da, cioè, come da una rete invisibile, che comunque non si riesce, la differenza che hanno cercano di colmarla in tutti i modi, ma forse non ci riusciranno mai. Che tipo di risposte hai avuto alla presentazione? Ma buone, devo dire, perché la sala ci sono state due proiezioni a Venezia, nella sezione Orizzonti, la sala era piena, chiaramente il concorso, essendo un concorso internazionale che ospitava cortometraggi da tutto il mondo, il livello era molto alto, questo mi ha reso molto felice, perché ho visto insomma dei lavori meravigliosi da tutto il mondo. Buone risposte, devo dire, sì, c'è stata una buona accoglienza. Carlo, sarà possibile vederlo prossimamente? Speriamo sì, assolutamente, su o a un festival romano, non vedo l'ora che succeda, o addirittura una presentazione privata che vorremmo fare, privata, insomma no, una presentazione pubblica, ma al di fuori di un festival, che vorremmo fare o al Valle o in un altro posto, insomma, ma stiamo ancora cercando di capire, non c'è niente di certo, e spero insomma appena avrò notizie vorrò informare Radio Onda Rossa della presentazione. Benissimo, allora nel frattempo io ti abbraccio e ti do appuntamento a presto. Grazie mille. Ciao Carlo. A voi un abbraccio, buon lavoro. Ciao. Ciao. Carlo Sironi, regista del cortometraggio Cargo, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15, ma quest'oggi sicuramente andremo oltre. E per comunicare con noi vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, per inviarci sms il numero è 342-357-4357. È con noi Daniele Cipri, regista di È stato il figlio, in sala da domani 14 settembre, film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Daniele, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie a voi, grazie per avermi ospitato. Come va? Bene, guarda, sono arrivato a Palermo in questo momento, ritorno da Toronto, sono stato a Roma a inaugurare l'apertura, poi l'uscita di domani del film. Sono molto felice del risultato di Toronto e sono adesso a Palermo perché c'è l'anteprima. Allora, raccontiamo a chi ci ascolta un po' la trama per orientarci. Ma niente, io parlo di una famiglia, intanto il film, l'idea del film è un libro che mi era stato proposto, che è stato il figlio di Robert Zalaimo. Io ho mantenuto lo stesso titolo, ho aspettato tanto prima di realizzarlo perché il libro era molto potente. È la storia di una famiglia che nel disagio economico e nel disastro umano, perché gli muore una bambina per una pallottola vagante, hanno un risarcimento ai danni ai caduti della mafia. Con questi soldi però, che loro ritengono che si possano assicurare la felicità, questi soldi sono portatori di altre cose, altro male. Io non voglio svelare nulla, spero certo. Che non vengano a vedere dal cinema. E niente, quindi è una storia è una storia vera, riletta e incorniciata dalla letteratura di Robert Zalaimo, è riscritta diciamo da me con un soggetto nuovo, quindi coinvolgendo lo scrittore del libro, quindi è una cosa abbastanza anomala, non so se ti fa di solito, sì. Coinvolgere Roberto Zalaimo. Senti Daniele, l'ambientazione anni 70, proprio quando esplose il consumismo di massa. Esattamente, però diciamo che io il mio registro è un po' sul grottesco, favola nera, quindi non ho né connotazione e fra l'altro non ho girato neanche a Palermo, quindi ho cercato dei luoghi che me le evocassero, quindi parlando anche dell'Italia di oggi, delle famiglie di oggi, con altri elementi, con un altro tipo di desiderio, adesso c'è la televisione, l'apparire. Invece Nicola Ciraulo si accontenta del giocattolino che è un'automobile, quindi c'è molto del contemporaneo. Senti, a un certo punto diventa cruciale l'aspetto arcaico, i vincoli di sangue che riportano a una sorta di tribalismo. È questa una delle radici dei mali nazionali, secondo te? Ma guarda, è un male che ormai attraversiamo anche con le cose che sono successe negli ultimi periodi, pensiamo un po' a Sara Scacchi, la ragazza che è stata uccisa, insomma c'è qualcosa di contemporaneo, ecco, di scelta. La famiglia può essere bella se non c'è una slegata da poteri che possono essere il denaro oppure la sopravvivenza, quello è l'aspetto che distrugge le famiglie. E comunque non è compito mio dirlo, cioè io non voglio mandare né messaggi, io ho fatto un film sorridendoci su questa tragedia e spero che arrivi. Sì. Spero che arrivi questa. Senti, la questione mafiosa è affrontata tangenzialmente, però insomma è presente in qualche modo anche poi nei comportamenti che assumono i personaggi da un certo punto in poi della storia. Ecco, come che impressione hai? Come vivi la dimensione mafiosa che comunque ci in qualche modo coinvolge a livello di popolo? Guarda, la situazione mafiosa nel caso del mio film è un pretesto, non è neanche raccontata, però se tu ti riferisci a quello che accade nella Sicilia, abbiamo sofferto di questo, non credo che sia finito nulla, ma la viviamo tutti adesso, quindi non solo noi, quindi questi certo. Stereotipi sono ormai passati, quindi certo. Non ti ripeto, non sono un analista politico e mafioso. Quindi da questo punto di vista per me nel film il concetto mafia è un pretesto, lo racconto proprio come un pretesto per quello che poi succede con un personaggio che poi è il cugino di Tancredi. Senti, il percorso artistico che ti ha portato in solitaria a realizzare questo film? Che cosa intendi dire? ho avuto fatica, ho fatto fatica? Beh, no, no, anche che tipo di scelte ti ci hanno portato, insomma. No, ma guarda, la scelta è stata dura perché, come ti dicevo, il libro di Roberto era abbastanza forte, era abbastanza potente, quindi sì, ho dovuto trovare soltanto una scrittura visiva, riscrivere un po' tutti i personaggi, insomma ho fatto un lavoro sul mio immaginario, un mio ricordo, anche di miei parenti, di situazioni, gestualità, di... poi ti viene naturale, sai, chi coglierà anche un aspetto del mio passato, lo coglierà attraverso l'immaginario, in questo caso l'immagine, i luoghi, come guardi i personaggi, quindi è abbastanza naturale, e spero che questo si colga, ma non era il mio scopo, sì. Il mio scopo era fare un buon lavoro su un romanzo che era abbastanza già potente di suo, e che quindi volevo, infatti ho chiesto a Roberto, come ti dicevo, se voleva aderire al soggetto, perché diciamo io narro questa storia in un posto universale, in un luogo universale che è la Posta Italiana, mm-hmm. Quindi è questa la cosa che mi ha fatto scattare l'idea di raccontare una tragistoria, una favola tragica, sì, sì. con un mio stile, non lo so se sarà diciamo recepita questa cosa, ma sicuramente c'è tanto di quello che ho fatto. Sì, sì. Senti, ecco, da dove viene questa estetica tra il kitsch e il pop e questo grottesco che riguarda non solo dei personaggi che sembrano delle vere e proprie maschere, ma insomma un po' più in generale tutti gli aspetti del film? Ma guarda, gli aspetti del film ce ne sono veramente tanti, quando io immagino di raccontare attraverso l'immagine, in questo caso con il supporto della settima arte, non riesco ad avere altri film dentro il mio film, cioè dal punto di vista estetico, sì, dal sì, punto sì. di vista proprio del... ho un mio... non è cinefilia, perché poi si confonde con la cinefilia, sono omaggi... possono essere celebrazioni, omaggi di registi che ho amato e che continuo ad amare, quindi dico sempre nel mio film ci sono altri film, ma dal punto di vista narrativo, estetico, più che dal punto di vista della citazione, ecco, sì, sì. Più un omaggio, una celebrazione, quindi mi diverto a contaminare dal western al musical ad altre forme di cinema, però nel mio piccolo, dico, non so se ci riesco, questo mi dà la libertà di poter raccontare anche una storia, in questo caso come quella di Ciraulo, che è una storia tragica, perché uh-huh. il film ha del tragico, ma ti arriva con un grande umorismo, ecco. Quindi è un insieme di input che hai fagocitato e rielaborato, insomma, a livello visivo. Sì, quello sicuramente, no, a livello visivo io tra l'altro mi sono curato pure l'immagine con un grande gruppo di tecnici che mi sono portato in diversi film, quindi mi sono sentito protetto da tutti i punti di vista, tecnici, artistici, e ho fatto il film con poche settimane proprio perché lo sentivo e avevo dei grandi collaboratori. Il film è di tutti, ecco, sì, il film sì. Per quello che vivrà, poi sai, uno si va a confrontare nelle sale, che è la cosa più importante, anche i riconoscimenti sono importanti, però è più importante confrontarsi con la gente, ecco, io questo lo reputo un film per la gente, bisogna vederlo. Bisogna sì. vederlo, sì. Senti, nel bene e nel male, cioè. Daniele, nel cast Tony Servillo, che è presente in molti film sui nostri schermi, un attore di provenienza teatrale, una grande maschera, ecco, com'è stato lavorarci? Straordinario, non ce l'ha messo, perché Tony non l'avevo neanche pensato per il mio film, è stato un momento di disperazione proprio per quello che dicevo, volevo il grottesco, volevo esasperare, evocare Palermo, e non volevo dei palermitani, li ho voluti incorniciando degli attori come Tony, come Fabrizio Falco, che è una rivelazione quanto è successo, ma accordandoli con il mio immaginario. Quindi Tony, che è un grandissimo attore, un grandissimo, e ti ripeto, io non ci arrivavo perché era troppo alto per me, mi ha dato un grande registro di un mio zio, fra l'altro. Ho incollato un mio zio di carattere, proprio, che poi non so se hai visto il film, poi noterai la velocità, la rapidità con la quale non succede poi nulla, di fatto. Fa solo danni. No, infatti l'ho visto e ti faccio anche i complimenti, Daniele. Grazie. Senti, grazie. In quante copie? Guarda, credo che siano un centinaio, spero. Ieri mi hanno detto la Fandango, intanto con il grande supporto di Rai Cinema, i miei produttori Passione, che Alessandro Acciai e Giorgio Maiulo, che mi hanno permesso di fare, stimolandomi, questo film, e con la Fandango, che crede al progetto e che mi sta, diciamo, facendo una grande promozione. Credo una centina, un centinaio di copie ci saranno. Bene, Daniele, allora speriamo che vadano al cinema, l'importante è che vadano al cinema, poi le copie le facciamo noi. Va bene. Allora, un abbraccio e a risentirci presto, resta un attimo in privato. Ok, grazie. In collegamento con Giovanna Taviani, ben ritrovata. Ciao, ben trovati a voi. Come stai? Resisto. Resisti, perché stiamo per parlare con te del festival che dirigerai, Esercizi di Resistenza, quale futuro? In quel di Salina, dal 19 al 23 settembre, però raccontaci un po' di questa anomalia, chiamiamola così. Sì, eravamo tutti pronti, io e i miei collaboratori, condirettori, che sono Martino Montinari e Antonio Pezzuto, più tutto lo staff, per questa sesta edizione del Salina Box Fest, il festival documentario narrativo a Salina. Io sono a Salina, sta arrivando una tempesta in questo momento, dopodiché, come avete letto tutti i giornali, la regione ha sforato il patto di stabilità, nel senso che ha dichiarato il default, e quindi sono stati bloccati tutti i decreti, e noi che eravamo a titolarità ci è stato detto il 20 agosto che, quindi con tutto il programma già organizzato, come puoi immaginare, ma come a noi ci sono tanti altri colleghi che dirigono i festival, e ci hanno detto che sarebbe stato tutto rimandato il prossimo anno. A quel punto, con un colpo di reni proprio tipico di chi resiste veramente, che ritrova in sé una forza partigiana che neanche io pensavo più di avere, noi, lo staff, la comunità di Santa di Salina, abbiamo deciso di resistere, di fare comunque un'edizione speciale, per non perdere un lavoro fatto da un anno, per non perdere anche la faccia nei confronti di tutti gli amici, registi, produttori, scrittori che avevano già impegnato la loro agenda da qualche mese, no? Per venire qui a Salina. E quindi facciamo questa edizione speciale dal 20 al 23 settembre qui a Salina, con veramente una colletta quasi, a cui hanno aderito tutti gli eoliani, gli imprenditori, i ragazzi, i carabinieri, i ristoratori, gli albergatori e chiaramente anche gli sponsor privati, e che insomma mi ha commosso molto, perché comunque la comunità ha risposto, ecco. Pensa che della vostra comunque attività meritoria, ne parlavamo con Agostino Ferrente, che è stato ospite in trasmissione qualche puntata fa, sul lavoro che ha portato a Venezia. Sì, lo so, perché voi, vabbè, da te vengono tutti, è la crema del documentario, come noi, anche te sei un partigiano del documentario, oltre che insomma del cinema, del reale generale. Agostino, certo, anche lui è uno che anche in passato ha saputo resistere, no? Per l'Apollo 11, eccetera, e ai tempi insomma dell'orchestra di Cassa Vittorio, è uno che fa politica culturale, fra l'altro lui verrà qui insieme a Giovanni Piperno in concorso con Le cose belle che ha presentato adesso a Venezia. Sì. Senti, Giovanna, quanti e quali lavori presenterete a Salina? Guarda, paradossalmente è forse l'edizione più bella, perché nasce proprio dalla passione, no? E il tema appunto è quale futuro, ci interroghiamo su come un po' tutta l'Italia, su quale futuro si prospetta per noi, per i più giovani soprattutto, e apriremo con una sezione dedicata a carceri e arte, le carceri raccontano, dove non poteva mancare come evento inaugurale richiesto a gran voce dalla comunità di Salina che non l'ha ancora visto, l'Orso d'Oro a Berlino di Paolo e Vittorio Taviani, che è Cesare deve morire, che come insomma sappiamo è un po' ha solcato nuove strade, no? Tra del cinema del reale, tra fiction, tra finzione e non finzione. E saranno presenti i detenuti, o meglio gli attori ex detenuti della compagnia teatrale di Re Bibbia, come Salvatore Striano, che accompagnerà il film, e una mostra fotografica che allestiremo, tempo permettendo, sotto le stelle, all'aperto, davanti al mare, sotto il cielo, proprio sugli scatti scattati appunto da Umberto Montiroli durante le riprese del film dentro il carcere di Re Bibbia. Quindi immagino quest'isola che si riempirà di queste facce di Bruto, di Cassio, chi l'ha visto sa che cosa dico, però sotto il cielo di Salina, certo. Secondo me potrebbe essere una cosa molto molto forte. Tra l'altro, poi, era stato Paolo era stato ospite qui in trasmissione al telefono, sì, ne avevamo parlato proprio. Sei riuscito a beccare uno dei due? Sì, Paolo è stato nostro ospite, sì. Sì, lo sai, vedi, sei la crema, non posso dire niente perché sono la figlia e la nipote, però comunque Cesare deve morire è veramente una chicca, no? Sì, sono d'accordo. Dai, continua. Poi appunto continuiamo con, ovviamente lo Zoccolo Duro è il concorso, per quest'anno però un po' per i tagli ai finanziamenti che già prevedevamo prima, alla cultura che già prevedevamo prima di questo ritardo del decreto, abbiamo ridotto a 8 su 9 e soprattutto abbiamo deciso di farlo nazionale e non internazionale per quest'anno, po' perché ci interessava proprio veramente capire cosa sta succedendo in Italia. E poi quindi dopo proseguiamo un'altra sezione che mi interessa molto, è donne.doc, perché accanto al tema appunto delle carceri e quindi di questo filo rosso che unisce questa edizione, cioè la cultura può salvare, no? Perché comunque Bruto, Salvatore Striano racconta sempre, e con lui tante altre persone come anche Gaetano Di Vaio, che verrà per presentare un promo del suo nuovo documentario, un promo in anteprima assoluta, sono delle persone che si sono redente attraverso Shakespeare, cioè leggendo i testi di Shakespeare hanno capito che il percorso che stavano facendo era sbagliato. Ora sembra un po' un discorso un po' idealistico, ma è così. Loro te lo dicono, è così. La cultura come strumento di liberazione, proprio anche Gaetano Di Vaio è stato nostro ospite, insomma, lui ci parla del suo passato di tossicodipendente e pregiudicato e dice insomma dell'importanza che ha avuto la cultura in generale e il cinema in particolare nella sua vita. Assolutamente, poi ti dico che questo filo rosso, in cui io credo molto gramscianamente, cioè della cultura che può veramente contribuire a come strumento di opposizione anche, no? Sì. Di costruzione anche di un mondo alternativo, e quindi si parte dalle scuole, perché poi lì è il problema, no? Si deve ricostruire un senso comune nei giovanissimi, negli studenti. E questo filo rosso arriva fino al premio letterario. Sai che noi ogni anno ci siamo inventati un premio letteratura che viene dato comunque a un'opera o a un autore che, esattamente come il documentarista, torna alla realtà in qualche modo. Quindi abbiamo esordito con Roberto Togliano quando ancora Gomorra non aveva avuto quel successo che ha avuto, e quest'anno diamo il premio a una donna attivista marocchina femminista che si chiama Jamila Hassoun, che è un'amica, anche una collega di Fatema Mernissi, questa molto più conosciuta ovviamente, che abbiamo scoperto essere una ex libraia di Marrakech che si è inventata la carovana del libro. La carovana del libro è una carovana di libri con cui lei va nei paesi sperduti del deserto arabo a distribuire libri ai giovani e alle donne analfabeta, perché, dice la Jamila, sapere è potere. Quindi è un discorso che sta molto bene in questa edizione e che tra l'altro poi rivolta un po' rovescia l'immaginario, lo stereotipo della Scheherazade, della donna velata, cioè questa è una in prima linea che combatte per la emancipazione femminile e contro l'analfabetismo attraverso i libri. Sì. E quindi insomma verrà anche lei e saremo insomma qui, e poi c'è una sezione appunto donne.doc dove avremo un po' di nostre registe italiane come Rossella Schillaci, Marantinetto De Lillo, che sono diventate direttrici artistiche di progetti collettivi. Antonietta sì, la dovremmo sentire prossimamente, sì, proprio su questi progetti. Quindi avremo anche loro, anche questo è interessante, perché comunque la donna va bene, insomma, inutile dirlo, però dalle primavere arabe, soprattutto in Egitto, a se non ora quando, ha assunto sempre più una centralità in questo panorama, e non ci sembrava importante cercare di indagare se esiste uno sguardo femminile. Io non ci ho mai creduto, sono una donna e sono una regista, quando mi chiedono ma tu hai uno sguardo femminile, io ho sempre detto ma insomma io ho uno sguardo femminile e uno sguardo maschile, cioè dipende anche dai periodi, dalle opere che faccio. Per esempio il primo documentario aveva più a che fare con la mia parte maschile, il Fuga a Prodi, e invece oggi dico che forse c'è uno sguardo femminile e quindi chiameremo anche tra l'altro nel workshop che faremo, tenuto da Gianfranco Rosi e da Ilaria Fraioli, che sono anche membri della giuria, insieme a Daniele Vicari, al direttore di Feed Marseille e a Lidia Ravera, terranno dei workshop, degli incontri sullo sguardo del documentario, in particolare Ilaria Fraioli sul montaggio di genere, punto interrogativo, cioè lei indagherà come ha lavorato da montatrice per autrici, appunto autori donne, autori uomini, quindi Alina Marrazzi per esempio, per Un'ora sola ti vorrei, e per vedere se esiste una differenza, uno specifico di genere, ecco, e quindi anche questo sembra molto interessante. Sì. Senti Giovanna, per avere più informazioni sul programma e anche più dettagliate, ci rimandi al sito internet? Assolutamente sì, non solo al sito internet ma anche su Facebook, e comunque il sito è www.salinadocfest.it, dove troverete il programma dettagliato giorno per giorno di questi 3 giorni di questa full immersion di resistenza, e soprattutto tutti i numeri utili per ristoranti e alberghi convenzionati, perché ricordo che chi viene a Salina durante il Salina Dog Fest usufruisce del 20% di sconto attraverso una card speciale che costa 5 euro, che si può acquistare qua quando si arriva a Salina direttamente, prenotandosi insomma con tutti i numeri. E poi c'è questa lettera aperta che abbiamo mandato a tutti gli amici della cultura e delle Eolie, che appunto spero che appunto anche tu vorrai leggere e i tuoi ascoltatori aderire. È un appello appunto per sostenere il Salina Dog Fest in generale e per sostenere la cultura in generale. Bene Giovanna, allora spero anche di avere ospiti, i tuoi ospiti qui in trasmissione. A risentirci presto. Ma perché tu non vieni? Che faccio? Ma tu devi venire, anche perché sabato sera, non ti ho detto la cosa diciamo più così un po' di colore, viene sull'isola, approda sull'isola perché ha accettato il nostro richiamo alla resistenza, anche a cantare L'isola che c'è e non L'isola che non c'è, Edoardo Bennato, e c'è tutta la comunità di Salina che è impazzita, perché qua tutti cantavano Edoardo Bennato quando erano piccoli, poi non so perché sono fissati, e poi chiudiamo la domenica con una festa magrebina, una cena magrebina, cucinato dalle donne di Kouribga, che sono una comunità marocchina di Malfa, che fanno couscous di tutti i tipi, con Enzo Gragnaniello e la sua band, che insomma raccontano l'esperienza di Mala Vista Social Club. Quindi ancora una volta Napoli e la cultura partenopea. Va bene, allora ti dirò. Perfetto. Giovanna, intanto io ti abbraccio. Anch'io tantissimo, ciao a tutti, grazie. A presto, ciao. Ciao. Giovanna Taviani, direttrice del Festival Esercizi di Resistenza, quale futuro? A Salina dal 19 al 23 settembre e dopo lo speciale veneziano proseguiamo con altri ospiti per parlare di cose che usciranno tra festival, televisione e sale cinematografiche. Giulia Graglia è tornata con noi, ci sei? Ci sono. Oh, eccoci qui, è un piacere di averti di nuovo con noi, ancora per parlare di vino e di documentari. Il piacere è mio, ovviamente. Allora, c'eravamo sentiti, tra l'altro, l'ho visto di recente il tuo Senza Trucco. Sì, quando? Dov'è che l'hai visto? Eh sì, perché sono in giuria al Clorofilla Film Festival. Ah, ma ma ancora non posso dire niente perché insomma la premiazione ci sarà verso il 20 settembre, sì, il 20 settembre. Ok, neanche sotto tortura, no, niente, non ci provo neanche no, a dire no, qualcosa. No, no. Questa volta per parlare del tuo nuovo lavoro che presenterai proprio al festival che si svolge in provincia di Novara in tre località, se non sbaglio ad Ameno sarà la proiezione del tuo documentario in anteprima, Il Re del Mosto, questo è il titolo, dici un po' di più Giulia. Sì, dunque il Re del Mosto in realtà è un progetto di qualche anno fa, nel senso che io ho fatto le riprese nel 2003. Sì. E la storia di questo produttore è entrato nel mito ormai, di Barbera, Giacomo Bologna, che è morto nel 1990. E io con Matteo Codrino, con cui ho scritto il progetto appunto nel 2003, abbiamo deciso di fare delle interviste ai più cari amici di questo produttore, Giacomo Bologna, tra cui c'erano anche Luigi Veronelli, Bruno Lauzi, c'era Gianni Rivera, Gianni Basso, Gianni Coscia, insomma dei personaggi anche abbastanza così importanti, di cui purtroppo alcuni nel frattempo sono morti. Se ogni tanto dammi segni di sì, presenza. Mi viene subito una domanda, Giulia, cos'è che ha fatto così amare questo personaggio? Guarda, questo personaggio era... dico, io purtroppo non l'ho conosciuto perché è morto nel 90 e ho avuto solo modo di assaggiare i suoi vini e poi di leggere di lui, di vedere dei video, le sue interviste ed è l'uomo che ha rivoluzionato la Barbera perché ha fatto sì che un vino che fino a quel momento era un vino contadino di poco valore diventasse un vino invece di grandissimo spessore e alla ribalta insomma in tutto il mondo. E poi, mi senti sempre? Guarda. Ti sentiamo, sei ancora con noi. Quindi è precedente in realtà il progetto a quello successivo che ha visto come protagoniste delle donne che si dedicano alla viticoltura. Guarda, ti dirò di più, non solo è precedente, ma è il motivo per cui io poi mi sono innamorata del vino e sono poi diventata sommelier e ho deciso di dedicare totalmente la mia vita al vino, insomma, e al cinema anche. Però è un film che io ho montato nel 2003-2004, ma che è rimasto in un contesto per vari motivi. E il produttore di Senza Trucco, Marco Ciumara, l'ha visto e mi ha detto ma perché non lo rimontiamo per bene con la stessa montatrice di Senza Trucco e ne facciamo un film insomma di qualità. E così abbiamo passato qualche mese quest'anno e abbiamo rimontato il documentario. Senti, questa tua nuovo status di baccante e documentarista, dove ti sta portando? Guarda, mi sta portando in realtà in un sacco di posti, perché Senza Trucco ha... finora ha avuto un buon successo, ci hanno invitati a diversi festival, sono usciti molti articoli sul documentario e poi vabbè io scrivo anche per, ogni tanto mi danno così degli articoli da scrivere, mi chiedono di intervenire per dei libri, così, per cui per ora è la strada che... Una cosa che mi sembra giusta, speriamo che continui in questa direzione. Senti, leggendo del problema dell'occupazione, si vede anche che l'agricoltura è in controtendenza, per cui si sono creati degli spiragli di lavoro, per esempio, in questo campo, e mi sembra che poi, che per quanto riguarda i vini, è un campo che continua ad essere fiorente. Sì, guarda, io so che anche nel mondo del vino la crisi si fa sentire, così come in quello dell'agricoltura in generale, però so anche che c'è tutto un settore di nicchia soprattutto che riesce a rimanere a galla, nel senso che comunque più le colture e più la produzione di vino sono specifici, sono curati, sono attenti alla qualità, al prodotto, al naturale soprattutto, e più comunque c'è un pubblico sia italiano che straniero continua a seguirlo, per cui io sono convinta che sia, almeno per l'Italia, questo settore sia quello da seguire, da coltivare, in modo da salvare insomma un'economia che altrimenti andrebbe a rotoli. Senti, per il tuo primo lavoro, che poi sarebbe il secondo, Senza Trucco, avevi girato un po' diversi luoghi d'Italia. Ecco, è una situazione simile un po' in tutto il territorio? Sì, scusa, per quanto riguarda, dici, la situazione dello stato dell'agricoltura, intendi? Sì, l'agricoltura del... Guarda, sto entrando in galleria, spero di reggerti ancora, ok? ci sono per ora. Sì, guarda, ovviamente ci sono delle regioni che stanno meglio, senza dubbio. Il Piemonte, per esempio, è una regione in cui, cioè, è un'isola felice. Ora sono stata di recente in Calabria a girare un documentario per il Ministero dell'Agricoltura, per l'ISMEA, e lì c'è già un po' più di crisi, fanno già un po' più di difficoltà. Però ti dico, quando vedi in realtà che si impegnano per seguire un tipo di attività eticamente e eticamente corretto, insomma, che rispetti l'ambiente, io noto veramente che comunque le realtà aziendali riescono a mantenersi in forma, in salute. Tra l'altro, l'input per il tuo lavoro Senza Trucco era partito, se non sbaglio, dalla manifestazione Terra Terra che si svolge al Forte Prenestino. No, in realtà, guarda, era partito da una manifestazione sui vini naturali a Roma. Comunque la filosofia poi è quella, insomma, sì. La filosofia dei viticoltori naturali, dei produttori che lavorano tenendosi ben lontano dagli interventi chimici in vigna e in cantina, per cui siamo sempre lì, sì. Senti, Giulia... Infatti, guarda, no, volevo solo dire una cosa. Sì, come no. Bologna era un produttore ovviamente convenzionale, perché quando lui lavorava, dico, è morto nel 90, non esisteva neanche il pensiero del vino naturale, del biologico, però adesso ripercorrendo tutta la sua vita, ristudiando il personaggio, la sua filosofia legata al vino, il suo amore per i contadini, per il territorio, per la terra in genere, io sono convinta veramente al 99% che lui ora come ora sarebbe un produttore naturale e farebbe grandi battaglie per salvare i vitigni autoctoni e la tradizione del vino. Senti, dopo la presentazione in quel di Novara, il Re del Mosto dove lo porterai? Guarda, il Re del Mosto seguirà una strada abbastanza simile a quella di Senza Trucco, nel senso che io ho aperto un blog di nuovo, come ho fatto per Senza Trucco l'anno scorso, per finanziare la fine dei lavori del documentario, perché come per Senza Trucco è un'autoproduzione, per cui mi serviva che per pubblicare effettivamente DVD. Siamo di nuovo riusciti a prevendere un sacco di copie del DVD, ora è andato, se non sbaglio, stamattina in stampa il DVD, finalmente ci dedicheremo alla vendita del film dal blog, che si chiama Il Re del Mosto ed è su WordPress come piattaforma, e poi inizieremo a farlo girare per i festival, insomma speriamo che abbia la stessa fortuna di Senza Trucco, perché appunto Senza Trucco continua a essere richiestissimo e noi ne siamo molto orgogliosi davvero. Bene Giulia, allora spero di avere presto tue notizie, fammi sapere, nel frattempo un abbraccio. E l'abbiamo persa, è entrata in galleria. Io intanto non ti sento più, ah, ecco. Spero che tu... sì, ah, okay, sì. No, ti stavo salutando e... ah, spero che abbiamo... e a risentirci presto a questo punto. Eh sì, la galleria ha sancito anche la fine della telefonata. Questa era Giulia Graglia, regista del documentario, documentario Il Re del Mosto, che sarà presentato alla terza edizione di Corto e Fieno, Festival del Cinema Rurale, che si svolge ad Ameno, Miasino e Pettenasco, in provincia di Novara, dal 14 al 16 settembre. Oh, parliamo adesso di un piccolo caso cinematografico, del film La Patente, che è andato in sala al Nuovo Cinema Aquila a fine agosto, ma visto il successo che ha ottenuto è tornato da ieri, se non sbaglio, in sala, e quindi ne parliamo con il regista Alessandro Palazzi. Ci sei? Ciao Federico, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora, buon pomeriggio. La Patente, sì. È così come ho detto, nel senso... Hai detto perfetto, abbiamo fatto una prima settimana da fine agosto, mi pare dal 27, e abbiamo registrato praticamente un tutto esaurito, praticamente per quasi tutti i giorni, e quindi ce l'hanno richiesto, e adesso da ieri stiamo ancora in sala, fino a giovedì prossimo sicuramente, fino al 20 sicuramente al Cinema Aquila a Roma, e se va bene anche oltre, insomma, ci potrebbero mantenere, quindi invito tutti a farci un salto, insomma. Senti, cos'è che ha funzionato al di là del, insomma, del gradimento, ma insomma all'inizio la gente non lo conosceva, come... Ma guarda, praticamente ha funzionato molto bene, insomma, due o tre cose hanno funzionato bene. Un po' il passaparola, un po' Facebook, un po' i nostri contatti inizialmente, e poi dopo è andato anche parecchio per conto suo, perché sostanzialmente è una commedia che funziona nella misura in cui escono tutti abbastanza divertiti da quello che hanno visto, e quindi hanno passato un'ora e mezza, diciamo, molto gradevole, ecco, come sì. I personaggi sono molto molto veri, molto schietti, molto sinceri, gli attori sono tutti bravissimi nel rendere questo, e quindi questo microcosmo che gravita intorno a descrivere questo microcosmo dell'autoscuola, della scuola guida. Il tutto con tono surreale, diciamolo, insomma. sì, surreale, ma ci sono parecchie caricature, ecco, certo. Come dire, di molti personaggi, come no, certo. Allora, per chi non... Si basano su un'esperienza personale, per cui molti sono presi proprio dalla realtà. Ah, vedi. Senti, per chi non conosce la trama, sì. Descrivila per sommi capi. Per sommi capi è una trama che parla, se vogliamo parlare proprio della trama, una trama che parla molto di precarietà in qualche modo, quindi sono due giovani precari che si arrabbattano con vari lavoretti e diciamo hanno un'occasione di prendere in gestione un'autoscuola. Licenziano tutti i vecchi diciamo dipendenti eccetera così e cercano di organizzare loro la situazione con esiti che poi insomma esiti un po' distruttivi o autodistruttivi e non aggiungo altro. Senti, da dove viene l'idea della patente? Te l'ho detto, io diciamo ero in un periodo della mia vita in cui cercavo un soggetto, una storia per esordire, chiaramente stando in dei budget iper ridotti, e mi sono iscritto in un'autoscuola, ma non per lo stesso motivo, perché non avevo proprio la patente, io non ce l'ho da tanto, insomma la patente ce l'ho da 5-6 anni, è tantissimo. Quindi vivendo quell'esperienza, dopo poco è subito diventato uno dei soggetti papabili per provarci, e poi insomma alla fine è stato scelto, forse perché mi ci sentivo a mio agio, perché l'avevo vissuto, sai... E poi perché si prestava bene anche da un punto di vista produttivo, sicuramente. E il tuo percorso artistico? Ma il mio percorso artistico, cioè al di là della laurea in disciplina dello spettacolo, tutta autodidatta sul campo, diciamo, cortometraggi, videoclip, ho vinto alcuni premi con questi lavori, però diciamo sì, più o meno tutto da solo, autodidatta. E questo, e questo è il primo lungometraggio di finzione? Sì, è il primo lungometraggio, sì. Ah, come hai messo insieme la squadra? La squadra, guarda, la gran parte è una squadra che mi sono appunto formato negli anni, quindi tecnici, nel senso detto la fotografia, scenografi, costumisti, sono persone che hanno fatto già almeno un paio di altri miei lavori. Il casting è stata la questione più spinosa, ma anche quella centrale, perché comunque c'erano tanti attori da dover trovare, e poi si sono rivelati la vera forza, il vero motore, il vero traino dell'operazione, e ci abbiamo messo tanto, il casting è stato in due fasi, tutti attori di teatro, tutti attori diciamo emergenti, ma tutti molto molto molto preparati. Poi tu mi hai detto che hai visto il film, forse sì, lo sì, sì. Gli attori sono un punto di forza della nostra produzione, e è durato tanto il casting, c'è stata una prima fase di alcuni mesi, 4-5 mesi, poi il progetto si è interrotto perché mancavano fondi in varie situazioni, poi è ripreso un'altra volta il casting per altri 6-8 mesi, e poi successivamente, quando abbiamo chiuso, abbiamo fatto almeno 3-4 mesi di prove, quasi tutte le sere, prima di approcciare il set. Allora, da ieri al nuovo Cinema Aquila, una nuova programmazione, per chi volesse saperne di più, su internet c'è un sito sul film? C'è lapatentefilm.it e su Facebook Film La Patente ci siamo. Benissimo. Alessandro, un abbraccio, a risentirci presto. Federico, e resta un attimo in linea. Sì. Allora, siamo in collegamento con Marco Simon Puccioni, regista del documentario Prima di tutto, che sarà proiettato, sarà trasmesso all'interno di Doc 3 mercoledì prossimo, 19 settembre. Marco, intanto ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a voi. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di un documentario, diciamo, come una specie di autodocumentario, nel senso che un documentario che ho fatto sulla mia famiglia, la famiglia che ho creato insieme al mio compagno, e racconta un po' appunto come si diventa genitori con la gestazione per altri e tutto il percorso che abbiamo compiuto. Diciamo, è in realtà poi quello che ho fatto per la RAI, un primo passo, una prima riflessione su questo tema. Sì. Quindi è, come dire, uno studio di un documentario più grande che farò l'anno prossimo e che appunto fa una riflessione sull'omogeneitorialità, sull'assenza di diritti, sulle relazioni che si instaurano tra una coppia gay e, diciamo, le persone che ci aiutano a diventare genitori. Ecco, in questo senso, Marco, quali le difficoltà e quali le soddisfazioni in questa esperienza? Beh, sono le cose che poi vengono raccontate nel documentario, nel senso che abbiamo una situazione di assenza di diritti in sì. Italia dal punto di vista legislativo, e in realtà abbiamo una società molto più avanzata dei suoi legislatori. E per cui in realtà l'accoglienza che la nostra famiglia, che i nostri figli hanno ricevuto già in questi 3 anni di vita, quindi nelle istituzioni che possono essere dalla ASL al pediatra, al pronto soccorso, al nido, al rapporto con le altre famiglie, compagni di scuola, è stato ottimo. Quindi diciamo, non è che portiamo questo disordine pubblico che sembra essere la motivazione per cui in Italia non ci possono essere matrimoni omosessuali o ancor meno adozioni. Senti, è una richiesta, è una pratica diffusa a livello appunto nazionale? No, perché è un percorso molto complesso, diciamo. Potrebbe essere molto diffuso se la società aprisse all'adozione per single e per coppie gay, allora probabilmente il desiderio di genitorialità delle coppie omosessuali troverebbe molto più soddisfazione. Il percorso della gestazione per altri è un percorso che è legale e possibile solo negli Stati Uniti, nel Canada, in altri paesi del mondo. È un percorso indubbiamente complesso, difficile, costoso, elaborato, sì, avventuroso, sì, direi quasi. Ecco, in questo senso ci sono strutture auto-organizzate che aiutano in qualche modo, coordinano? Beh, esiste appunto l'associazione delle famiglie Arcobaleno che riunisce le famiglie omogenitoriali. Senti, questo documentario arriva ad Hoc 3, insomma mi sembra intanto una tappa importante, e poi dove sarà visibile? Ci saranno anche altri altri appuntamenti, altre possibilità? No, perché in realtà, come ti dicevo, è uno studio, per un documentario più ampio, più grande, che farò l'anno scorso, quindi che appunto verrà compiuto l'anno prossimo, quindi sarà a partire dal momento in cui il documentario sarà finito, che saranno fatti festival e altre occasioni pubbliche. Appunto, questo essendo uno studio preparatorio, non lo considero il documentario finale vero e proprio, che rappresenta completamente la mia posizione rispetto all'argomento, insomma, quello che vorrei raccontare. Però siccome è anche un work in progress, va bene, nel senso che i protagonisti sono anche i bambini e loro sviluppano nel tempo, quindi anche la loro coscienza, la loro voce sarà sempre più presente, il loro punto di vista, insomma, sarà sempre più presente, anche se essendo piccoli non potranno articolare più di tanto, però già adesso hanno coscienza della loro famiglia, hanno coscienza della loro situazione. Bene Marco, allora ricordiamo l'appuntamento su Doc 3, su Rai 3, mercoledì 19 settembre. L'orario? L'orario è quello di Doc 3, quindi infatti la pesca, cioè nel senso 11.45 più, sì, o meno 23.45, 23.45 grosso modo, 23.30, ma poi bisogna chiederlo a Rai 3, sappiamo che la situazione è dominata dai TG, le loro esigenze, quindi non garantisco l'orario. Comunque indicativamente è quella lì l'orario, e comunque è lo spazio di Doc 3. Bene, allora questo è il primo appuntamento, e a questo punto ti do appuntamento al lavoro finito per riparlarne. Certo, molto volentieri. Un abbraccio, a presto Marco. Un abbraccio a voi. Ciao. Marco Simon Puccioni, regista del documentario Prima di tutto, e con lui finisce questa puntata di Visionari. L'appuntamento è per giovedì prossimo, 20 settembre, su Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, con gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di venerdì 14 settembre, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione ormai a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la programmazione sul piccolo schermo, e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia, e poi il link per riascoltare la puntata precedente e le puntate del 2012. È tutto, buon proseguimento, alla settimana prossima. Ah, e a questo punto anche i riferimenti per comunicare con noi, scusate, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, e per gli sms in diretta il numero è 342 3574 357. È tutto.